giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Concluse in meno di 2 ore le operazioni di sgombero dei migranti dall'ingresso del Porto Vecchio, saranno trasferiti in altre regioni. La famiglia De Menego, uno dei 2 poliziotti uccisi nella questura di Trieste nel 2019, ha intentato una causa civile per danni al Ministero dell'Interno. Gli accordi finanziari tra Stato e Regione raggiunti col Ministro dell'Economia Giorgetti, illustrati questa mattina in Consiglio regionale dal Presidente Fedriga. Approvato il bando per la realizzazione dell'ultimo tratto della terza corsia della A4, quello tra Porto Gruaro e San Donà, i lavori partiranno entro il 2026. Oggi sciopero nazionale dei medici e del personale sanitario degli ospedali, a rischio esami e visite programmate, garantite comunque le emergenze. Inaugurata oggi a Trieste una casa dello studente privata da 360 posti letto con 290 camere destinate agli universitari, all'interno anche un hotel. Si avvicina la giornata contro la violenza sulle donne. Oggi a Trieste la vicentina sopravvissuta 10 anni fa alle 16 coltellate inferte dal fidanzato. Il suo racconto. Un nuovo studio pubblicato, condotto al CRO di Aviano, accende nuove speranze per il trattamento dei casi più difficili di cancro dell'ovaio. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. Si è concluso dunque in meno di 2 ore lo sgombero questa mattina a Trieste dei migranti alloggiati sotto una tettoia all'ingresso del Porto Vecchio, un rifugio che aveva sostituito il Silos dopo lo sgombero qualche tempo fa di quella struttura. I migranti, circa 250, saranno trasferiti altrove. In fila con i documenti in mano erano quasi in 200. Sono saliti sugli autobus in gruppi da 5 accompagnati da dirigenti di polizia. Nelle buste di plastica e nei borsoni portavano con sé lo stretto necessario. L'operazione si è svolta in modo ordinato, partita prima delle 8, ha coinvolto un nutrito spiegamento di forze dell'ordine. Gli operatori dell'accoglienza non sono stati avvisati ufficialmente dell'intervento. Alessandra Verniere e Francesco Cibati di Linea d'Ombra. Alla fine di giugno, insomma, le associazioni erano state tutte informate. C'era stata l'informativa in prefettura e quindi diciamo più con un po' di più regolarità formale. Poi qui le cose sono comunque relativamente tranquille, non è successo, però a me sembra assolutamente carente appunto l'informazione. Proviamo a dare risalto alle centinaia di persone che sono state sgomberate a giugno dal Silos con la promessa di Camposacro, proviamo a dare una risposta a questa indecenza. Qual è la risposta? Lo sgombero. Anziché aprire il dormitorio in via Gioia. Padre Lamanna, direttore Caritas Trieste. Se manca l'intenzione di governare un fenomeno, qualsiasi città è in ginocchio. Noi come Caritas abbiamo un dormitorio per il piano freddo, aperto l'anno scorso, e va avanti grazie a un buon numero di triestini. Quindi la città, se interpellata, risponde. Loro destinazione più probabile Lombardia, i centri vicino a Brescia. La maggior parte ha già svolto l'identificazione e il fotosegnalamento, c'era chi ha già formalizzato la domanda a Trieste. Alcuni proseguiranno l'iter per il permesso di soggiorno altrove. L'operazione ha coinvolto anche le altre palazzine nelle vicinanze del Molo Quarto. Poche le presenze e solo alcuni dei presenti hanno seguito gli uomini in divisa. La tettoia dell'ingresso monumentale del Porto Vecchio è rimasta per alcune ore un tappeto di vestiti, sacchi a pelo, sparsi in giro scarpe, effetti personali. Spazzolini da denti. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il padre di Matteo De Menego, uno dei 2 agenti di polizia ucciso in questura nella sparatoria del 2019 a Trieste, ha fatto causa al Ministero degli Interni, una causa civile per risarcimento danni. La famiglia si è affidata all'avvocata Rachele Nicolin di Vicenza. Uno dei punti su cui si concentra la richiesta è il malfunzionamento delle fondine rotanti in plastica rigida. All'epoca erano in dotazione. La fondina dell'agente Pierluigi Rotta, l'altra vittima, si era rotta da qualche giorno e usava una fondina in cordura, un tessuto rigido senza blocchi di sicurezza. Per questo Meran è riuscito in un secondo a sfilargli l'arma di dosso e poi a sparare. Il sindacato autonomo di polizia SAP già dal 2018 aveva più volte fatto presente al dipartimento competente che le fondine in plastica rigida si rompevano spesso. Proprio 2 giorni prima dell'omicidio di De Menego e Pierluigi Rotta, il dipartimento aveva risposto al sindacato scrivendo che era conosciuto conoscenza del problema e stavano vagliando un nuovo modello di fondina. La responsabilità, anche come datore di lavoro, qualcuno se la deve prendere, ha dichiarato Fabio De Menico, il padre di Matteo. Lorenzo Tamaro, del sindacato autonomo di polizia SAP, fa sapere che il sindacato appoggia in pieno la richiesta di risarcimento avanzata dalla famiglia del collega scomparso. Questa mattina è iniziato lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici e del personale sanitario degli ospedali iscritti ai sindacati ANAO, ASOMED, CIMO, FESMED e NURSING. I delegati regionali sono andati a Roma per la manifestazione nazionale. Nei reparti ospedalieri, contingenti minimi ed emergenza-urgenza garantiti, di servizi possibili invece su esami, interventi, visite specialistiche. Sciopero nazionale di 24 ore con manifestazione a Roma di medici e dirigenti sanitari dei sindacati ANAO, ASOMED e CIMO, FESMED. In altre regioni anche degli infermieri iscritti a Nursing Up. Chiedono al governo un giusto riconoscimento, economico ma non solo, per la professione. Chiara Nuovo, consigliere regionale e nazionale di ANAO ASOMED. Posso citare la mancata defiscalizzazione e il mancato piano straordinario delle assunzioni. A parità di organico, di personale, vengono richieste sempre più prestazioni e soprattutto addirittura ci viene dato il tempo di esecuzione di una data prestazione, il che secondo me va proprio in contrasto con l'umanizzazione delle cure. UIL e CGL aderiranno allo sciopero generale il 29 novembre, manifestazione regionale a Pordenone, contro la manovra di bilancio e le risorse stanziate per il rinnovo del contratto. Stefano Bressan, segretario generale di UIL FPL FVG. Si parla di un incremento di nemmeno 60 euro lordi e questo è totalmente inaccettabile. In regione UIL calcola una mancanza di quasi 2.000 professionisti, circa 400 medici, 900 infermieri, 400 OS, 300 tecnici amministrativi. E nei prossimi due anni, tra dimissioni e quiescenze, se ne perderanno altri 1.400. In alcune sale, segnala il sindacato, invece di 7 reperibilità al mese, se ne raggiungono il doppio per non interrompere l'attività chirurgica. L'intervento deve essere strutturale e forte ed è necessario l'inserimento di nuove risorse. Chiesta anche uniformità stipendiale nelle voci accessorie per tutti i professionisti della regione. Ci sono differenze salariali da Pordenone a Trieste, da Gorizia a Udine. E questo comunque è inaccettabile e va in qualche modo regolamentato per dare un giusto riconoscimento. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha illustrato questa mattina all'Aula del Consiglio regionale in cosa consistono gli ultimi accordi finanziari tra Stato e Regione siglati con il ministro dell'Economia, Giorgetti. Le novità del patto Stato-Regione rinegoziato dal presidente Fedriga col ministro dell'Economia Giorgetti sono essenzialmente due. L'accordo viene prolungato fino al 2033 e viene inserita una clausola che obbliga il Friuli Venezia Giulia ad accantonare una parte delle risorse che restano qui da destinare a necessità future. I termini restano quelli già in vigore, ma, ha sottolineato Fedriga in aula, è un grosso risultato aver ottenuto la conferma delle precedenti condizioni in una situazione di tagli lineari imposti dalla finanziaria a tutti i ministeri. Una situazione che cambiava di ora in ora, dal giorno alla notte, ha detto. Da qui l'esigenza di chiudere in fretta, perché allungare i tempi avrebbe significato perdere risorse. La mancata informativa preliminare al Consiglio è la questione maggiormente messa sotto accusa dalle opposizioni. Mi scuso per non aver informato prima l'Aula, ha detto il Presidente. Me ne assumo la responsabilità, ma l'ho fatto per tutelare gli interessi della regione. Il patto prevede che la contribuzione regionale alle casse nazionali passi da 836 a 433 milioni l'anno, con un risparmio che dal 2022 al 2033 ammonta a 4 miliardi e 830 milioni. Rispetto alle entrate regionali, il contributo si abbassa dall'11 al 6,6%, risparmi che consentiranno investimenti e quindi si tradurranno, come già sta avvenendo, in un moltiplicatore di gettito fiscale. L'accordo è stato approvato con 23 voti a favore, uno contrario, due astenuti. Per le opposizioni la mancata informativa è un vulnus grave. Ne discutiamo senza avere un testo sul tavolo, ha detto Moretuzzo del Patto per l'Autonomia. Di violazione del del regolamento ha parlato Capozzi del Movimento 5 Stelle e Moretti, capogruppo PD, pur riconoscendo la bontà dei termini del patto, ha detto che sarebbe stato necessario venire in Consiglio regionale ancora prima che si aprisse la trattativa con Roma. Consiglio regionale Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Entro il 2026 saranno avviati i lavori tra Porto Gruaro e San Donà di Piave che concluderanno la realizzazione della terza corsia autostradale della A4. È stato appena approvato il bando per l'affidamento dei primi 25 chilometri degli 83 complessivi. Servono ancora 870 milioni di euro già stanziati in bando e poi tutto il tratto a tre corsie della A4 tra Quarto d'Altino e Palmanova per complessivi 83 chilometri sarà ultimato. Servono per il tratto di 25 chilometri tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, compresa anche la realizzazione del nuovo svincolo Casello di San Stino di Livenza. Il bando di gara approvato dal commissario per l'emergenza della A4 prevede l'affidamento chiavi in mano alla concessionaria autostradale. Al contraente generale, oltre ai lavori, sarà affidata anche la progettazione esecutiva dei 25 chilometri e del nuovo svincolo casello di San Stino di Livenza, che sorgerà a circa 2 chilometri ad est dell'attuale. Il cronoprogramma prevede la scadenza per la presentazione delle offerte entro il 1 aprile 2025, la conclusione della procedura di gara e l'aggiudicazione entro il prossimo anno, un anno per la redazione del progetto esecutivo e la sua approvazione da parte del commissario delegato. Entro il 2026 saranno quindi avviati i lavori, che potranno beneficiare dal punto di vista organizzativo e della rapidità di esecuzione dell'ultimazione dei lavori di rifacimento dei 10 cavalcavia nel tratto tra San Donà di Piave e Porto Gruaro. Si inizierà da San Donà di Piave procedendo verso est. Lungo l'intero tratto saranno ricostruiti 9 ponti su corsi d'acqua, tra cui quelli sul fiume Malghera e Livenza, 12 sottopassi di viabilità e linee ferroviarie, oltre 50 attraversamenti idraulici e saranno adeguate le rampe dello svincolo autostradale di Cessalto. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste e Gorizia 12 gradi, Udine e Pordenone 10,5, Tolmezzo 7,5, Piancavallo 6,5, Forni di Sopra e Tarvisio 5, Sappada 4, Monte Zoncolan 0, Monte Lussari meno 1,5 gradi, grado 11, Lignano 10,5. Le previsioni, oggi sarà probabile cielo nuvoloso con piogge sparse, in genere deboli, specie a est, e anche deboli nevicate oltre gli 800-1000 metri, specie su Alpi e Prealpi, Giulie, e sulla costa soffierà libeccio da moderato a sostenuto, soprattutto sul settore orientale. Sull'Isontino e sul Carso sarà possibile anche qualche rovescio temporalesco. In giornata miglioramento, soffierà vento sostenuto da nord o nord-ovest con possibili raffiche anche forti, soprattutto in quota. Sulla costa orientale in serata soffierà bora da moderata a sostenuta. Il Comitato Tutela Acque del Bacino Montano del Tagliamento, l'ex sindaco di Cavazzo Carnico Franceschino Barazzutti e il Comitato Salviamo il Lago di Cavazzo sono intervenuti sulla volontà della maggioranza in Consiglio regionale, così si legge in una nota, di escludere il bypass come intervento che può salvare il lago da morte certa, portando direttamente a valle lo scarico delle acque gelide, torbide e fangose ora scaricate dalla centrale di Somplago direttamente nel lago, che è il più grande della regione, sconvolgendolo. A questa posizione della quarta commissione, ostile al bypass, si legge ancora nella nota, si è aggiunta la tranciante dichiarazione dell'assessore Scocimarro, secondo il quale il bypass non è sostenibile. Mentre la scienza e la realtà, dicono i firmatari, dimostrano che è proprio lo scarico della centrale nel lago a sconvolgerlo. Confcommercio Udine è intervenuta oggi sulla questione dei parcheggi in città. Da quanto emerge dall'audizione in commissione bilancio, vengono purtroppo confermate tutte le nostre preoccupazioni, scrive il presidente Giuseppe Pavan. Centinaia di aziende stanno pagando, causa cantieri aperti e desertificazione di alcune piazze, un calo del fatturato con punte fino al 30%. Coinvolti a livello comunale, non dimentichiamolo, sono quasi 12.000 lavoratori. Ci lasciamo lasciano senza parole, entra nel merito il presidente di Confcommercio, i tempi sconosciuti di avvio della ristrutturazione del parcheggio Venerio, i tempi lunghi per l'ampliamento del Moretti, il definitivo chiarimento che al momento il parcheggio della Coop è riservato ai clienti del supermercato e la cancellazione di decine di parcheggi su strada. Per Confcommercio si tratta della conferma del fatto che l'assessorato ha un cronoprogramma che non si concilia con le esigenze immediate di residenti, pedoni, ciclisti, automobilisti, lavoratori e consumatori. Il privato risponde alla domanda di alloggi per studenti con una nuova struttura inaugurata oggi e frutto di un recupero urbanistico nella città di Trieste. Soggiorni di breve e lunga durata rivolti a studenti universitari, ma anche un format alberghiero destinato ad un pubblico giovane e CX Trieste Giulia, lo studentato da 360 posti letto sorto da quello che era un edificio ad uso direzionale di 9 piani. Risponde al bisogno di un ateneo dove sono circa 8.000 gli studenti fuori sede, quasi il 50% degli iscritti, mentre la capacità abitativa convenzionata per universitari è di 500 posti letto. La ristrutturazione è stata realizzata dal Fondo Housing Sociale Friuli Venezia Giulia di Finint Investments con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti e Regione FVG. Mauro Sbroggiò, amministratore delegato Finint Investments. È un modo nuovo di guardare agli studenti universitari, finalmente con un'ottica che ci mette in comparazione con altri paesi europei dove questa asset class è già sviluppata. È un modo di impiegare capitali anche guardando non solo al rendimento finanziario ma anche al rendimento socio-economico. Giancarlo Scotti, amministratore delegato Cassa Depositi e Prestiti Real Asset. Il Cassa Depositi investe sicuramente sul riuso del territorio e investe con piacere quando può investire come l'istruzione come motore della rigenerazione urbana. Spazi abitativi per lo studio ma anche per la socialità, palestra, caffetteria, cucine comuni, 290 camere per studenti ma anche due camerate hostel e 24 camere hotel. La struttura è stata dichiarata ammissibile al finanziamento previsto dal PNRR per le residenze universitarie, quindi per il 70% dei posti letto convenzionati dovrebbe essere prevista una tariffa ridotta del 15% rispetto al valore medio di mercato. Ernesto Albanese, presidente Campus X. Siamo candidati anche al bando del PNRR del Ministero dell'Università e della Ricerca, siamo in contatto con l'ente per il diritto allo studio e quindi speriamo di riuscire a portare per l'anno prossimo 100 posti letto a tariffe molto agevolate per studenti privi di mezzi e meritevoli. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Laura Roveri è una giovane vicentina che da 10 anni si fa testimone attiva di quanto le è successo dopo essere sopravvissuta alle 16 coltellate inferte dal suo fidanzato. Oggi racconterà la sua storia alle 14.30 a Trieste alla sede CISL di via Fabio Severo. A Buongiorno Regione questa mattina l'abbiamo incontrata. 12 aprile 2014, la sera dell'aggressione in una discoteca di Vicenza, l'ex fidanzato la colpisce con 16 coltellate a testa e gola. Dopo una lunga convalescenza, Laura Roveri, sopravvissuta, sceglie di diventare testimone attiva della lotta contro la violenza sulle donne. Centinaia gli incontri pubblici a cui ha partecipato in questi 10 anni. Il motivo principale che mi porta da 10 anni ad essere testimone attiva contro le violenze sulle donne è l'aver compreso sulla mia pelle che abbiamo un solo strumento a lungo termine per invertire la rotta, ovvero cercare di impiantare una cultura di genere, di parità, che affondi le sue radici il più profondamente possibile. Testimoniare per aiutare anche altre donne o ragazze ad avere il coraggio di reagire. Mi capita di frequente di incontrare ragazzi e ragazze che alla fine del laboratorio di questa esperienza insieme mi confidino situazioni personali o di amiche, compagne di classe, sorelle, conoscenti in difficoltà all'interno della propria relazione. Da tempo si parla di introdurre corsi all'affettività nelle scuole, anche di educazione sessuale, proposte che però rimangono su carta. Il nostro è l'ultimo dei 3 paesi in Europa a non poter contare su un'educazione sesso-affettiva strutturata all'interno delle scuole. Non è una casualità, non è vero che non ci sono i fondi, il punto è che quando si parla di educazione alla parità di genere, io credo che si vadano a toccare dei punti nevralgici che non tutti sono disposti a mettere in discussione. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno arrestato in flagrante un cittadino afghano per aver venduto una dose di hashish ad uno studente di 15 anni. Un altro spacciatore pakistano è stato denunciato per aver venduto droga a un maggiorenne. La polizia di Trieste ha arrestato una cittadina bulgara di 42 anni per furto in abitazione aggravato. Durante una serie di posti di controllo a San Giovanni di Duino, la donna fermata è risultata destinataria di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Milano nel 2011 per una serie di furti in abitazione sul territorio nazionale. La donna è stata portata nel carcere del Coroneo. Nuove speranze per la cura del tumore dell'ovaio nelle donne che hanno un cancro resistente ai farmaci vengono dal CRO di Aviano, dove si stanno studiando i meccanismi di funzionamento di una particolare proteina. Un nuovo studio pubblicato su Science Advances e condotto dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano accende nuove speranze per il trattamento del tumore dell'ovaio, che rappresenta la settima causa di morte per cancro nelle donne. Ogni anno in Italia ci sono tra 5 e 6 mila nuovi casi, trattati purtroppo spesso in fase avanzata, quando la malattia è meno curabile. Gustavo Baldassarre, direttore oncologia molecolare del CRO. Il trattamento dei tumori dell'ovaio si basa sulla chemioterapia. Negli ultimi anni alla chemioterapia è stato aggiunto un trattamento a bersaglio specifico che si chiama trattamento con PARP inibitori, inibitori della proteina PARP, e questo ha migliorato molto la sopravvivenza libera da malattia delle pazienti che hanno una malattia sensibile alla chemioterapia. Il problema è che molto spesso, anche dopo trattamento con PARP inibitori, abbiamo recidive che sono resistenti, e trattare queste recidive resistenti è molto difficile. Il laboratorio di oncologia molecolare del Centro Friulano studia, grazie a fondi AIRC, una particolare proteina nota come USP1, la cui inibizione sarebbe in grado di migliorare l'effetto della terapia anche nelle pazienti farmacoresistenti. Maura Sonego, ricercatrice dell'oncologia molecolare del CRO. In questo studio abbiamo in realtà capito che bloccare questa proteina è in grado anche di potenziare l'effetto dei trattamenti ai PARP inibitori, che è questa nuova classe di farmaci, non solo in un contesto di sensibilità alla terapia, ma anche e soprattutto in pazienti che incorrono ad una malattia resistente, chemioresistente e resistente ai PARP inibitori. Negli Stati Uniti lo studio dell'efficacia dell'inibizione di questa proteina nel migliorare il funzionamento dei PARP inibitori per il trattamento del carcinoma ovarico è già arrivato alla sperimentazione clinica. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova, in regia per la parte tecnica Carlo Morello e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.